All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Mercurio alla cena dei regini, un applauso ancora. Benvenuti alla cena dei regini, ragazzi. Anche questa settimana assieme, seguiteci il bac.it per cliccare la cena dei regini e guardare tutte le puntate della trasmissione, anche quelle precedenti. E c'è anche il bac.it per commentare anche questo blocco della puntata, come hanno fatto, e salutiamo la famiglia Morabito e tutta la comunità dei regini a Berlino che ci seguono, e quindi un applauso. Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, grande settimana assieme qua alla Gilda degli Artisti all'Aus. Abbiamo fatto la Jam Session Verdi, questo palco aperto per tutti gli artisti che vogliono venirsi a esibire. Questa settimana un fuori programma, diciamo così, ho recitato un po' di mie poesie con la chitarra del nostro Federico, che si è degnato di questa cosa bellissima. E comunque il venerdì palco aperto, quindi anche tu che sei a casa, il tuo strumento là che prende polvere, prendilo e portalo qui il venerdì per fare questa improvvisazione generale di arte. E poi ragazzi, lunedì continua il nostro Nerd Monday. Nerd Monday, da un lato il cinema, il grande cinema, e dall'altro il palco, il tavolo per i giochi da tavolo, per avere il tavolo per giocare a qualsiasi gioco volete e scatenarvi. Anche qui grande soddisfazione, abbiamo da poco acquistato, reperito il Jenga, questo gioco per costruire una torre di legno, che grazie a noi è diventato in una serata da Jenga per novizia alla Renzo Piano Edition, perché hanno fatto una torre di 40 piani, una cosa pazzesca. Anche questo succede nella follia dell'Aus. E tutto questo grazie alla Gilda degli Artisti. Gildartisti.org, clicca adesso, gildati adesso, perché ogni nuovo gildato è una voce in più per questa realtà. È gratuito, senza nessun impegno, e grazie a questa associazione organizziamo tutto questo. Ragazzi, da Gender Regina, un'altra puntata assieme. C'è anche il Cerebacco Twitter per commentare questa puntata. Un saluto a Luca Mercurio, che ci è venuto a trovare e che sarà ospite di questa puntata, introducendo con la sua arte ogni brano. Noi torniamo tra pochissimo con un piccolo spazio musicale. Speciale a te, per te, a te, per te. alla cena dei regini, ragazzi. Accomodatevi, accomodatevi. Registriamo due domande con il nostro ospite di questa sera, il Bacco.it, per rivedere tutte le puntate della cena dei regini, e c'è anche il Bacco.it per commentare anche questa intervista con Luca Mercurio, che è alla cena dei regini. Applausino. Grazie di esserci venuto a trovare, Luca. Per iniziare a scoprirti, a conoscerti, una breve presentazione del tuo progetto musicale a chi ancora non ti conosce. Il mio progetto musicale, l'ultimo disco che sta per uscire, si chiama Come Erba. Uh-huh. E sono 10 canzoni che parlano di personaggi molto particolari che osano e hanno modo di, osando di cambiare le cose. Mm-hmm. E parla di un mondo nuovo, un mondo che è di contrasto con quello attuale, col sistema attuale tradizionale, e che dà, diciamo, spazio alle persone di essere se stesse e di creare, diciamo, un'alternativa agli standard, diciamo, delle cose sociali, dei sistemi già acquisiti. Un'arte che parla di persone, quindi persone, sì, particolari. Persone, un'arte che parte dal basso, da persone che vivono la quotidianità di ogni giorno. In maniera un po' speciale. Sì, speciale perché semplice e genuina. Tornando, facendo qualche passo indietro, i tuoi inizi sono comunque nel genere punk, diciamo, sì. Che queste, hai creato un tuo gruppo con cui hai iniziato la tua carriera artistica. Come vedi adesso questa corrente artistica e come la vedevi ai tempi, quindi con gli occhi del ragazzo che iniziò? Come vedo il punk? Sì. Ma io l'ho sempre vista non dal punto di vista del genere musicale propriamente, ma quanto dal, come atteggiamento, diciamo, di vita. Stile di vita. Come stile di vita, sì, diciamo, che non è quello stereotipato del punk, diciamo, dell'idea che sia del punkettone, mm-hmm. non so, ma proprio come atteggiamento nei riguardi della, quindi più una, diciamo, più un'anima punk che punk in quanto icona, cliché, sì, diciamo, sì. Diciamo sociale. Quindi hai iniziato il tuo percorso così e hai continuato muovendoti anche nel teatro sperimentale, sì. un passo importante della tua carriera artistica. Questo, il teatro sperimentale spesso vive anche a corto, diciamo così, di risorse, in contesti abbastanza difficili, comunque poco contestualizzati. Com'è stata la tua esperienza in quell'ambiente e cosa trovi insostituibile del teatro sperimentale rispetto agli altri generi artistici che hai trattato? Quindi, come diciamo, è rimasto? La parte insostituibile del teatro sperimentale è sempre quella, il fatto di voler andare sempre oltre certi schemi acquisiti. Uh-huh. E una parte fondamentale del teatro sperimentale è, diciamo, la spiritualità di fondo che c'è nel fare questo tipo di teatro, quindi sempre alla ricerca di un'altra dimensione, ecco, un'innovazione, cioè. Un'innovazione, ma anche un'altra dimensione rispetto a quella, diciamo, prettamente materiale, carnale, diciamo. Quindi un piano più metafisico, piano dell'arte, sì, esatto, diciamo, si potrebbe definire così. Il tuo capitolo artistico attuale è un po' qualcosa di diverso. Comunque, adesso, in questo momento, il tuo progetto musicale, come lo definiresti e a quale pubblico, se lo hai definito, ti piacerebbe parlare? Guarda, a me piace parlare al pubblico più semplice, ma veramente popolare. Ho sempre una visione universale delle cose, non settoriale, o mi piace essere ascoltato da gente, sia da gente, diciamo, semplice, ossia da gente che magari ascolta un certo tipo di musica, diciamo, è abbastanza trasversale il modo di comunicare. Quindi, anche perché essendo storie che partono dal basso, magari tu dici... Esatto. Può coinvolgere un po' qualsiasi elemento sociale. Luca Mercurio, questa è la domanda classica, gli spettatori lo sanno, che faccia ogni ospite della Cena dei Regini. Luca Mercurio, sindaco di una città italiana, per un giorno, la puoi contestualizzare come preferisci, quali sono le iniziative da intraprendere? Vedi, non mi sono neanche abituato a fare da intraprendere subito per migliorare le situazioni. Quindi Luca Mercurio, sindaco di una città italiana per un giorno, cosa faresti? Senti, non lo so, a bruciapelo, cioè la prima cosa che mi viene in mente è, non so, di creare delle aziende produttive comunali dove impiegare le persone, diciamo, disoccupate, uh-huh, che hanno competenza però nei vari settori, diciamo, che andremo a sviluppare. A trattare. E poi la questione delle abitazioni, delle case, cioè, perché ritengo che ogni famiglia debba avere una casa di proprietà, e dato che i comuni comunque hanno terreni o hanno case abbandonate, cercare di dare una casa a ogni nucleo familiare attingendo da questo tipo di risorse. Notevole, una risposta veramente notevole, perché comunque dare casa, quindi, a chi non ce l'ha, per mettere tutti avere un tetto e per mettere tutti a lavorare tramite aziende comunali. Certo. Beh, molto interessante. Facciamo anche una mail al sindaco in questo momento in cerca di idee di Reggio Calabria, perché può essere. Votiamo anche lui. Ragazzi, Luca Mercurio, lo ringraziamo ancora per esserci venuto a trovare, farà l'ospite, introdurrà anche questi altri segmenti della trasmissione. C'è la @ilbac.it per commentare anche questo ospite, e ilbac.it per saperne di più sulla Cena dei Regini. Noi torniamo tra poco dopo un piccolo spazio musicale. A tra poco. Passando il mio passato, non c'è più un'altra volta, non c'è più un'altra volta. Accomodatevi, torniamo. Bravissimi, sono venuto a trovare a questa puntata, ospite di questa puntata, Luca Mercurio, accomodati, ristoratevi un attimo mentre noi entriamo nello spazio della trasmissione delle notizie dalla strada, quelle più curiose, più particolari, quelle che non volevi leggere ma noi te le propiniamo lo stesso. Ad esempio questa notizia che veramente ha conquistato il popolo del web, è cliccatissimo questo vestito, come non parlarne, lei già si sta disperando, come me, non si può non parlarne, scusa, un vestito, questa ragazza Caitlin McNeil su Tumblr ha postato la foto di un vestito dal colore diciamo un po' sgargiante e lei ha scritto chiedendo aiuto al popolo del web, dice: che colore è questo vestito? Dividendo in maniera veramente incredibile tutti gli internauti. Lei ha 21 anni, ha scritto alla Scozia e pensa a questo vestito è stato ricondiviso in una maniera quasi preoccupante, cioè ne hanno parlato veramente tutti. L'abito, c'è chi lo vede bianco e oro, c'è chi lo vede nero e blu, insomma ha conquistato le pagine del web ultimamente. È fantastico, tanto che la casa produttrice del vestito ha dovuto pubblicare la foto dove svela che è blu e nero, però per un effetto di luce, dei colori, delle rifrazioni, insomma i colori danno questi effetti. Cosa basta per conquistare quei 15 minuti di notorietà? Ce la fa anche un vestito, voglio dire, c'è spazio per tutti, ragazzi, questa è l'idea. Secondo te che colore era? Ma guarda, non so dire. Cioè Rob è stato un rompicapo così complicato per voce, tutti, perché... che era praticamente se tu ti trovavi come una di quei una delle vittime di quel film di Saw, quelli praticamente, tu praticamente avrebbe fatto i rompicapi in 448 prima che sapessi svelare qual è il colore del vestito, più che altro. Certo, perché è ancora più complicato svelare il colore di questo vestito. E quindi pensa, questa è bastata questa condivisione per mettere KO le credenze della rete. Ma ragazzi, la rete abbiamo visto che è un'alcova dove si creano delle mode positive ma a volte anche negative. Abbiamo parlato diverse volte del Knockout Game, questa moda un po', come dire, furente, un fight club improvvisato. Cioè questi ragazzi andavano in giro a menare improvvisamente la gente, gli davano un pugno così però è molto flash, perché comunque così vedi un tizio, spam, gli davano un colpo. E in Spagna si è evoluto nel kick out game, cioè la nuova versione della cosa, in cui un gioco la nuova moda spagnola è vedere qualcuno e dargli un calcio in una gamba e farlo cadere a terra. Pensa che bello, la tecnologia che fa anche queste Ma magie. forse lo fanno in Spagna, se vengono qui a Reggio a farlo, pensare due volte prima di farlo. E beh, trovano Anzi, omoni io di 2 metri, penso che. mi inviterei a... Bisogna confrontarsi comunque anche in maniera. Invece sarebbe bello un kick out game dove tu vedi qualcuno invece che gli fa, anziché dargli un calcio, un pugno, cosa gli fai? Cioè, lanciamo questa idea. Un kiss game. Dare un bacio a una persona sola, cioè una mancia cucina, ti avvicina da un bacio, Bello. sulla pancia, sulla fronte. Io farei un money game Mi piace. da 100 euro e Dare mi offro 100 euro volontario per ricevere questo Io ma mi di offro volontario a non passare allora quando c'è lui. La compensazione bisogna comunque fare money game, kiss game, c'ho anche gli abbracci gratis, Ah quell'iniziativa, anche sì. Mi questo può ricordavo essere. Nox in una puntata, non so, di un programma di Italia 1, c'era questo orso rosa che Colorato, andava in giro a dare colorato. abbracci. Bello. Ed è bello anche perché pensa tu, lui ha avuto questa idea, ma c'è chi l'ha fatto Ah. veramente. Pensa, la coincidenza. Erano 500 ed 5 circa banconote da 100 euro appunto a Dubai nel quartiere di Jumeirah. Improvvisamente il traffico è iniziato a bloccarsi perché c'è stata una pioggia di banconote. Pioggia di banconote a Dubai verso le 3 del pomeriggio l'11 febbraio, e traffico impazzito perché queste banconote volavano nell'aria. Ovviamente le persone hanno volato nelle macchine. Bisogno di questo incentivo del traffico di Dubai. Però è un bell'incentivo perché voglio Sì. dire, questa signora ne ha approfittato per raccattare anche lei qualche denaro. Ha fatto anche un video che è cliccatissimo su web. E si pensa che la somma totale sia circa 700.000 euro scialacquate, cioè distribuite così. Pensa, tu hai avuto l'idea e già te l'hanno rubata. Vedi? Vedi, anche questa è la tecnologia, non fai in tempo a creare un gioco sociale invece e ancora non si sa esattamente la provenienza di queste banconote, il che è molto sospetto. State attenti se dovete utilizzarle perché non si sa mai. Banconote sulla città, un sogno penso di chiunque comunque. Anche questa cosa a Reggio la vedrei molto bene. No, a Reggio spieghiamo. Siamo pronti a questi eventi perché il traffico è bloccato già di suo, quindi nelle zone. Magari lo sblocca. Ma in più, per avvantaggiarci su un eventuale benefattore, abbiamo creato a terra degli appositi raccoglitori di denaro dal cielo che qualche invidioso chiama buche, ma non sono buche, sono raccoglitori di denaro che potrebbe cadere dal cielo e quindi le manteniamo così. Tra l'altro, a San Batello ho letto questa notizia. La dico extra, si sta per festeggiare il compleanno perché una buca sta per fare, mi sembra 3 anni, non so se l'hai letta anche tu questa No, cosa. questa non l'avevo letta, che sono tanti per una buca, equivalgono intorno ai 120 per una persona. Sì, per una buca è un traguardo importante. Quindi questo quartiere, San Batello, che sta un po' diciamo in collina, in una curva ha questa buca e tra poco festeggeranno i 3 anni insieme a questa buca. E addirittura c'è una mostra, diciamo una piccola mostra fotografica sul web, dove puoi vedere tutti i passi di questa buca, da quando era piccolina a quando si è espansa per prendere metà carreggiata. Ragazzi, un applauso veramente ai ragazzi del quartiere di San Batello. Io mi sono commosso, leggo queste cose e mi sono commosso, cioè veramente. Tengo a conto i compleanni della gatta Sofì, cioè figurati la buca, che cosa. Sarebbe bello misurare gli anni a questo punto, da dove c'è questa gara dei rossi sul lungomare di Villa Santo Anno. Anche tu già proponi Perché non questo. abbiamo le buche, ma abbiamo i rossi. E ne Sono lì da anni. tieni due sott'occhio, facciamo Si può una fare una puntata. foto, almeno che io ricordi sono più di 5. Ah, quindi anche un Sì, bel po'. dislivelli assurdi. Ma avete un dialogo con i dossi? Cioè, cioè li state. Io personalmente no, però so di molte persone che hanno avuto un faccia a faccia non voluto. In senso poco letterale, Sì, no? proprio, sai, come si va in bici o con lo skate. può capitare. Se non conosci grave. La zona, grave, grave. Skate grave. Rimane a Villa e tu sei a Canitello. Quartieri. Cose che non vorresti che mai che capitassero. Ma ragazzi, lei cambiamo pagina rispetto a cose che non vorresti che capitassero. Jennifer G puntato, non ha voluto dichiarare il suo cognome per motivi forse fiscali. È la fondatrice di Cuddle Clones. Questa ragazza che fa? Clona i tuoi animali domestici e ne fa un peluche esattamente uguale. Pensa che bello. Tu hai un cagnolino a cui tieni, hai un gatto a cui tieni, te lo puoi fare clonare e ti fa esattamente il suo clone peluche come memoria. Le dice che può lavorare anche da una foto, quindi tu gli fornisci la fotografia e lei ti fa il clone. E questa iniziativa è veramente grande successo, soprattutto in America. Ma anche questa non è una iniziativa originale, io ho già sentito qualcosa di simile. No, abbiamo parlato la settimana scorsa di un ragazzo giapponese, però quella era un'altra esigenza, che si è fidanzato con la sua doccia. Ha fornito la sua doccia di parrucca, diciamo con parti estetici, e si è fidanzato con la sua doccia. Invece tu hai un'altra. Sì, un'altra, di una pornografia americana che si è fatta clonare con una bambola, ma non da bambola gonfiabile, proprio una di gomma identica. Fantastico. Lei, proprio in tutto, anche la pelle, cioè proprio tutto. Ah, e i suoi fan acquistano questa per stare con lei, per di più. Quindi rientro. È la donna ideale, no? Vedi, perché l'importante è che le battute maschiliste non le faccia mai io, e questo mi piace. No, io riferisco soltanto quello che ho letto. Non bello. Potevano farti un bel film? No, lei non ne ha bisogno. Ma ha inciso sul suo lavoro? È inquietante questo, cioè magari certo, il diciamo, business è migliorato. Hanno pagata per bene per i diritti di immagine. Vedi. Quindi insomma, anche gli artigiani preoccupati alla stampa in 3D possono essere più sicuri. Immagine bravo, tridimensionale. pensa tu. E comunque vedi, anche se tu sei una pornostar puoi fare la tua copia, è importante. Identica in ogni particolare. In ogni particolare. In tutti i particolari, veramente. Avete capito? Maniacale. E non è ancora lo spazio da bollino rosso, mi piace questa puntata, mi piace. Quindi ragazzi, l'arte, la condivisione di queste bambole che replicano organismi viventi e o porno attrici. Ma c'è un artista che vuole andare oltre, si chiama Mark Farid. E si sta preparando con una raccolta fondi su Kickstarter per un progetto che ha quasi del futuristico, insomma, tra il futuristico e lo psicopatico un pochettino. Questo ragazzo, Mark Farid, vuole trascorrere 28 giorni di un'altra persona. Cioè si sta finanziando questa possibilità di trascorrere 28 giorni sempre attaccato a un caschetto di realtà virtuale che proietta quello che vede un'altra persona. L'altra persona che sarà reclutata tramite un diciamo un bando di concorso, un casting. Quindi lui per 28 giorni starà là nel suo letto a guardare la vita di un'altra persona tramite questi occhialoni con un casco per la realtà virtuale, di questi qua moderni. Avrà solo delle pause per il cibo, nel senso che sarà nutrito sempre col caschetto addosso, e delle pause per consultare uno psicologo, perché già si pensa che noi pensiamo che abbia dei problemi, ma lui pensa che potrebbe averne anche in conseguenza a questa iniziativa. Mark non deve conoscere la persona di cui vivrà questi 28 giorni, però pensa, 28 giorni, 24 ore al giorno, vedere la vita di un'altra persona. Iniziativa forte, particolare. Ma se ci fosse una persona di cui vorreste vivere, non dico 28 giorni perché è impegnativo, ma una giornata di un'altra persona, chi vorreste? Qualche idea? Aspetta che questo c'ho una lista addirittura lunga di persone. passo per ora. Ragazzi, un giorno facciamo un giorno di un'altra persona. Chi vorreste? Di Peppe. Ah, interessante. Io ho della mia compagna. Ah. Penso che mi servirebbe a capire dove manco. È bella, bella questa nota anche un po' romantica. Cioè guardare il mondo tramite i suoi occhi e guardare anche sì, il tuo sì, mondo. Sì, sceglierei una persona la più vicina, comunque una persona che conosco. Di vivere la vita di un personaggio famoso, conosciuto. Non ti interessa. C'è una persona funzionale. Sì, ma è utile sapere cosa accade intorno a me, imparare. Ok. Ok. Un'altra persona, personaggio famoso. Forse un politico, proprio per vedere quali casini combina dietro le nostre spalle, più che altro. Bella questa cosa. Cioè, per scoprire, cioè per vedere cosa combinano loro mentre noi non sappiamo nulla e ci riferiscono cose tutt'altro diverse di quelle loro che fanno, capito, tanto il giorno. Mm. Quindi sgamare il politico tramite l'occhialetto e la realtà virtuale. Poi di questi tempi sarebbe anche un'impresa impegnativa e alla fine si risolverebbe tutto con una partita di calcio, perché è l'Italia. Sì. Non so, se scoprissi qualcosa che non voglio scoprire, ma questo, attento, questo fa parte dell'esperimento. Questo fa parte dell'esperimento, capisci? Altre idee? No, io sono messo completamente. Non c'è nessuno in particolare con cui scambieresti, cioè, queste. No, tanti. Sto, c'è una lotta. Tanti. Si è impallato il sistema. Penso, magari anche la pornostar che si è fatta clonare avrà sicuramente una vita piena di iniziative. Può essere che c'è questa cosa. In un giorno di lavoro, no, sicuramente no. Un'anteprima sui prossimi. Ragazzi, il bollino rosso dopo, che tra l'altro sarà veramente rivelatrice, ma andiamo avanti con un'altra creatura che vuole essere qualcosa di speciale. Ha conquistato anche lei il web nel suo piccolo, sulle sue quattro zampe, dimostrandosi un perfetto cane. Peccato che nella realtà lei è una pecora. È una pecora che vive come se fosse un cane. Lei ha condiviso parecchio tempo con i cani all'interno del posto dove sta, tanto da assomigliare in tutto e per tutto a un cane. Il suo video ha spopolato nel web, è diventata una piccola star del web, una piccola star pelosa di quelle cucciolose, così e via dicendo. E ora devo stare attento per tutte le volte che Sofì guarda i video delle tigri, perché non vorrei che mi sbranasse quando torno a casa, che lei è la mascotte dell'house. Quindi pensate, assimilare talmente tanto qualcosa da... Quindi se io adesso pensassi a un uomo senza tosse, mi passerebbe la tosse. Devo migliorare in questo. Ragazzi, è il momento finale, è il momento che tutti stavate aspettando. Tutti e tutte, assolutamente. Lui già ha capito, metti il bollino rosso. La notizia, quella un po' piccantella, un po' così particolare, che assolutamente lasciamo per la fine di questa rubrica. Ed è una notizia molto, molto utile per tutte le donne, perché una donna ha scoperto il test perfetto per scoprire se il marito ti tradisce. Ragazzi, plomb, non tradite, nessun segno di cedimento, mi raccomando. Penso che sia il caso di censurarle queste notizie. Ci dovrebbe essere una legge. Plomb, si ha la censura, sì. Non è il caso. Si capisce chi ha accoppiato e chi no da questo. E lei ha diffuso sul web, restando anonimo, questo suo test che, secondo la sua fonte, cioè l'ha raccontata così. È tornata a casa, lei donna tedesca, a me dice di essere tedesca, è tornata a casa e ha scritto un bigliettino dove, indirizzato al marito, dove scrive: la nostra storia è finita, tipo mi hai deluso, una cosa del genere, punto. L'ha lasciato sul tavolo di casa e lei si è messa a letto spiando il marito che rientrava. Il test quando avviene? Quando il marito torna a casa, legge il bigliettino, il marito fedele è quello che va da lei, magari la sveglia, la coccola, gli dice ma dai, risolviamo, eccetera. Il marito traditore, come è accaduto a questa donna, il cui marito ha preso il cellulare, ha scritto subito all'amante, è andata, vediamoci adesso subito che mi devo rifare la serata. Il test è questo. Il test del bigliettino, da come lui risponde al bigliettino, voi potete farvi un'idea. Vedo le donne già che... Ormai sono svelato, però. Si confronta. Dovete fare qualcos'altro, il bigliettino. Anche perché ormai il bigliettino, diciamo, chi lo legge? Cioè, magari dovete andare su qualcosa di più, di più tecnologico. Mi piace il messaggio sulla lavagnetta. Che dolce. E quindi sulla lavagnetta gli puoi scrivere: mi hai deluso. Mi hai deluso. Ho fatto il briciole per terra. No, ma io vorrei essere tradizionale. Fai scrivere un bigliettino e vedi come reagisco. Si può fare. Adesso che ha le spalle coperte, anche questo può essere utile, ragazzi. C'è una chioccia del Bacco.it, commenta questa notizia e racconta il tuo metodo per scoprire se il tuo lui o la tua lei ti tradisce, perché magari ce l'hai anche tu. Hai notato qualcosa di diverso? Un atteggiamento equivoco? Un numero che non era quello dell'amica? Sì che l'ho notato, guarda, mi piace essere un po', perché questo è lo spazio del bollino rosso, quindi bisogna essere un po' attraenti, un po' così. Tu lo sai e lo scriverai a cena@ilbac.it. Mi raccomando, ragazzi, dita incrociate per tutti gli uomini. C'è un po' di empatia maschile, diciamo. Ilbac.it per svelare tutti i segreti della Cena dei Regini. E noi torniamo adesso dopo un piccolo spazio musicale. A tra poco. Arturo e Alessandro Gini, ragazzi, bravissimi, bravissimi, veramente, accomodatevi. Sì, ragazzi, ospite della Cena dei Regini, Luca Mercurio, che ci sta deliziando con le sue, con i suoi pezzi. E ragazzi, anche questa settimana la rubrica per eccellenza preferita da tutte le persone che si chiamano Anna Rita. Anna Rita, mi raccomando, ascoltaci bene. La classifica, cos'è? Dei punti fondamentali di cose particolari che noi andiamo a esporre in questo momento. Questa settimana la classifica sono i sei film che hanno predetto le tragedie del futuro. Quindi, perché capita in un film, vedi un qualcosa che poi si va a realizzare. Veramente sei film, sei esperienze cinematografiche che si sono realizzate. Alla numero 6, ragazzi, il primo film noto a tutti, che ha avuto anche una gestazione particolare, perché comunque prima è uscito, poi è stato rieditato, Game of Death, il film di Bruce Lee, che ha predetto la morte di Brandon Lee. Il film di il film era del 78, la morte è venuta nel 93. E quindi interpreta Bruce Lee, questo attore che sta girando un film, ma viene colpito accidentalmente da un colpo di pistola esploso sul set. Quindi pensa alla circostanza del padre che interpreta un personaggio che poi una scena, diciamo, che poi diventa drammatica nella vita del figlio. Game of Death, un film che poi ha lanciato definitivamente Bruce Lee. Ne parlavamo l'altra sera per la famosa tutina gialla, che poi è stata ripresa anche in Kill Bill, quindi poi è diventato il film di spicco della carriera di Bruce Lee. Quindi ha predetto questa cosa. Al numero 5, ragazzi, Poltergeist, film d'orrore per eccellenza, perché comunque è grande, classico, ha predetto la morte di Heather O'Rourke, che in una scena del film si vede questo manifesto appeso con la data del Super Bowl dell'88, sebbene Poltergeist fosse dell'82. Non si capisce come mai, però si sa che questa protagonista sarebbe morta esattamente nella data dell'88 riportata in quel manifesto. Quindi un elemento scenico che sembra assurdo, improponibile, cioè, però poi viene ricollegato a un fatto tragico. Quindi pensate a questo dettaglio che diventa comunque secondario, che diventa tragicamente primario. C'è anche al numero 4 Above Suspicion, un film che ha predetto con Christopher Reeve, che ha predetto poi quello che sarebbe stato il tragico destino di Christopher Reeve, cioè la sua paralisi. E quindi comunque in questo film l'ha interpretata prima che accadesse. Quindi pensa tu, l'incredibile ancora coincidenza del cinema. E poi ci sono anche casi un po', diciamo, particolari, non dico comici, ma quasi. Sesso e potere, un film che ha introdotto, per meglio dire anticipato, il famoso Sexgate di Bill Clinton. Ha avuto una storiaccia con una tizia, Bill, è da bravo americano, ha lanciato dei razzi in Africa per sviare i media nazionali, perché l'America sempre noi siamo. Il film si chiama Sesso e potere di Barry Levinson. Ha anticipato questo diciamo rapporto oltraggioso che mette nei guai il presidente degli Stati Uniti, come esattamente poi è successo a Bill Clinton. Quindi una cosa incredibile. Alla numero 2, altro film storico, ma comunque di entità minore, Chinatown con Jack Nicholson. Nel film c'è una storia di una ragazzina che scopre che la madre in realtà è quella che pensava fosse la sorella, storia intricatissima, degna di qualsiasi telenovela. E poi povero Jack ha scoperto che è quello che è successo a lui, perché poi scoprì che di essere il figlio di quella che pensava fosse sua sorella. Una vita veramente incredibile. Poi lui ha avuto sempre un rapporto conflittuale con il mondo delle donne, però comunque ha avuto anche questo trauma, pensate voi, molto particolare, ragazzi, alla numero 1, due film veramente storici del panorama fantascientifico, Matrix e Demolition Man. In Demolition Man in particolare, in una scena di Demolition Man si vede una scritta durante questo viaggio in questo carcere futuristico dove i criminali vengono ibernati, diciamo così. Si vede il nome di un criminale che risponde a tale Scott Peterson. Ebbene, 10 anni più tardi, proprio un tizio di nome Scott Peterson si rivelò essere un serial killer, un colpevole di uno degli omicidi più efferati della storia americana recente, quindi pensa tu. Vabbè, hanno beccato il nome dell'assassino nel film, però non era un film giallo, era Demolition Man, il che è ancora più drammatico. Ragazzi, se ci fosse un film che si vuole avverare, cioè quale sarebbe il film in cui, diciamo, vorreste vivere? Cioè, da domani si realizza, non so, ti piace Peter Pan, immagina se domani un film, il film in cui vorreste vivere, il film che si vorrebbe avverare secondo voi. Può essere un film bello, può essere un film brutto, se uno è un po' emotivo e vuole. L'alba dei morti viventi. L'alba dei morti viventi, ragazzi. Ah, sarebbe bellissimo, tipo salire sul tetto di casa col fucile e cominciare a sparare. Fa il commesso di oggi nel 2008. Sti ragazzi. Quindi tu ti vedi già proiettato nell'apocalisse zombie. Oh, voglio, è bellissimo. Io ho detto, noi all'Aus abbiamo la nostra arma di attacco, Andreina. 90, quanto hai fatto? Se 80% di colpi col fucile riusciti durante una sua storica festa di compleanno, tra l'altro vedevamo prima, quindi la nostra arma anti-zombie è lei. È già pronta. E non ho sbagliato uno, Che comunque bisogna anche adesso. Quel giorno lì hai visto cosa i ragazzi gli hanno giocato, non l'ha buttato giù, io l'ho buttato giù insieme, quindi nell'apocalisse zombie assolutamente da arruolare Andrina. Ragazzi, film o anche film c'ho il vuoto, un film di Nanni Moretti. Sa molto di Nanni Moretti del conduttore. Caos calmo. C'era pure. No, io sono per i classici. Io Ritorno al futuro. Caspita. Quello si ogni giorno. Originale. La panda, che lo sai che è stata fatta dallo stesso architetto, dallo stesso ingegnere. Lo sai di questa cosa? Cioè, pensa tu che cosa è andato a fare questo 8 anni dopo? Sì, mi sembra di sì, perché era più o meno contemporanea la cosa. E l'ingegnere che ha disegnato il profilo della DeLorean disegnò poi anche quello della panda. Cioè, e c'era qualche miscredente che mise in internet l'immagine comparativa. In basso, disegnando la DeLorean. Auto storica, tra l'altro, che prima andando la panda comunque non faceva fare bei viaggi, ma non ti riportava indietro nel tempo. Cioè, a volte non ti riportava indietro neanche sulla strada, quindi voglio dire, ragazzi, avete qualche idea, qualche film in cui vorreste vivere in questo momento, comunque domani si avvera questo? Mi è venuto in mente Magnolia. Magnolia è un po' apocalittico, la caduta delle rane, la pioggia delle rane. La pioggia delle rane di Magnano, che può essere anche un'occasione appetitosa. E quindi ognuno vuole vivere un film che ha visto, un libro che ha visto in questi giorni, in questi mesi. C'è un film che ha preso assolutamente il dominio su tutto, ed è quello in cui vorrei vivere esattamente io, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Cosa che c'è? Che cosa avete pensato? Sporcaccio, guarda lui, che cosa? Cioè, io c'ho il back.it, dove vuoi vivere? In quale film, in quale romanzo, in quale libro? Cioè, io c'ho il back.it, scrivilo adesso e ne parleremo la prossima settimana. E con questo, ragazzi, è tutto dal back, dai ragazzi da cena e da Luca Mercurio, che ci è venuto a trovare in questa puntata straordinaria. A settimana prossima con la cena dei regini.